Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Argante, il traghettatore, ben trovati. Partiamo subito con una notizia che riguarda tre grandi marchi: Nike, Adidas e Puma. Queste tre multinazionali dell'abbigliamento sportivo si sono impegnate pubblicamente a ridurre a zero il rilascio di sostanze chimiche pericolose che vengono usate nella filiera produttiva e nei prodotti. Tutto questo avverrà entro il 2020. E non è una notizia di poco conto, onore al merito soprattutto a quella che possiamo sicuramente definire una vittoria di Greenpeace, che con le campagne Panni Sporchi e Panni Sporchi 2, come si usa nel cinema, è riuscita a dare sicuramente un grosso contributo al processo di responsabilizzazione di queste multinazionali. E a proposito di responsabilizzazione, ci piace adesso raccontare, con l'aiuto del direttore di Fiera Bolzano, Reinhold Marsoner, il Clima Mobility E-Tour. Direttore, buongiorno. Buongiorno a voi. Cominciamo col dire Clima Mobility che cos'è, velocemente, e poi passiamo all'E-Tour. Sì, allora Clima Mobility è la prima fiera della mobilità sostenibile che si terrà fra due settimane nel quartiere di Fiera Bolzano, assieme alla fiera Clima Energy, fiera delle rinnovabili. E voi quest'anno avete aggiunto questa novità, cioè quest'idea, che è quella dell'E-Tour, cioè lei è qualche giorno, domani si completa, che sta girando il territorio per parlare, per sensibilizzare chi e a che cosa. Esatto, allora il messaggio è quello che il futuro praticamente è già iniziato, perché le auto elettriche ci sono e si possono fare anche delle tour abbastanza impegnative. Siamo partiti da Bolzano lunedì mattina e abbiamo fatto ogni giorno una o due città del Veneto come tappa. Abbiamo incontrato gli amministratori comunali anche per dare loro la possibilità di parlare sulle loro esperienze in tematica di risparmio energetico e di rinnovabili. Questo per far rete e soprattutto anche questo per far conoscere la realtà che già esiste e che sicuramente si svilupperà nei prossimi anni. Ecco, su questo c'è, a dire la verità, come dallo zero siamo passati forse ad un eccesso di proposizione, nel senso che molte città si stanno muovendo autonomamente sul tema dell'elettrico. Mancherebbe, sembra, un quadro, un progetto generale, così? Ma sì, questo è anche vero. D'altro canto, se nessuno inizia a muoversi, rimaniamo sempre lì dove siamo. Quindi è giusto che i comuni e le città si muovano per conto loro, visto anche che a livello nazionale per il momento non c'è alcun incentivo per far sì che la macchina elettrica faccia, diciamo, lo stesso percorso come l'ha fatto il fotovoltaico. E infatti siamo diventati anche lì da zero, siamo arrivati subito ai vertici delle varie classifiche. La reazione da parte degli amministratori è stata? La reazione è stata molto positiva, hanno accolto il nostro invito di presentare quello che loro stanno facendo e ci hanno accolti, ci hanno ospitati nelle loro piazze centrali, in modo che potevamo anche contattare un pubblico che devo dire che era molto interessato. Quindi l'appuntamento, lo ribadiamo, è con Clima Mobility Tour. Allora, le date? La Clima Mobility. Scusi, Clima Mobility, fiera, non i tour, finisce fiera, domani. La fiera, volevo dire. Dal 22 al 24 di settembre a Bolzano, il tour invece finisce domenica con gli ultimi comuni della Val di Fiemme e Val di Fassa. Oggi andiamo ancora a Treviso, e poi Conegliano, Belluno e poi i comuni della Fiemme di Fassa. Va bene, è stata anche una bella occasione anche per lei per, come dire, rinfrescare la memoria del fantastico territorio dove chi ha di percorso. Esatto, ci sono città che da sempre sono sostenibili. Purtroppo negli ultimi 50 anni questo è stato un po' perso, adesso cerchiamo tutti quanti di recuperare, di cambiare. Esatto. Grazie, complimenti e un bocca al lupo per la fiera, direttore. Grazie a voi e a vostro ascoltatore, arrivederci. Completiamo la puntata di oggi con un altro riferimento a un'altra importante associazione ambientalista, il WWF, che come ogni anno alle classi e alle scuole che si sono iscritte al Panda Club e a Panda Explorer ha indirizzato i kit educativi realizzati appositamente per queste scuole, materiale di informazione, proposte di attività che hanno come obiettivo quello di spingere i ragazzi ad una maggiore attenzione ma anche cura della natura e del territorio. È tutto per oggi, vi ricordo che potete indirizzare le vostre segnalazioni a ferribotti@radio24.it. Grazie in redazione ad Anita Panizza e in regia a Carmelo Lauricella. Alla prossima.